solo papa, papa ya ba orphelin. Soki oti ki biso lelo yo, toko su kande wapie. Olo ba ki a solo, oko ti ka biso te. Lelo yo na leli, ya wese pa ina yo. Olo ba ki a solo, batimba ba orphelin te. Tala lelo yo batimbi ngai. Yawe yo kali wapie ya no langa imwana pona pike pai na yo yawe nanga zambe nanga kote kabiso te hey yawe toko tale lana ni yaya hey yawe Na singi na yo, kimya pe makasi na yo. Na talela mukilite, na talela kakasi yo. A talelo yo basi mingai, kulo yo koti kangai te. Na yebi yo kosala, molili. Si la e passi e passi come li biso bana tutto sala io sala dio cosala tutto sala la mochete passi o passi come li biso bana tutto sala io sala e io vedo la che vuoi fai na io Na mukili ezali pasi Kasi biso totale la kakaka yo Kone pesa kabonino Kone mukili pesa kate Aleluya